Il punto di Stefano Folli. Quando Monti si dice preoccupato che i politici possano vanificare fra pochi mesi, cioè dopo le elezioni, il lavoro fatto dal suo governo, dà voce ai pensieri che corrono nelle maggiori cancellerie europee, in Germania in particolare, e sui mercati finanziari. È una preoccupazione che può essere condivisa o no, ma come si vede è molto politica e molto impegnativa. Per certi aspetti è l'affermazione più politica fatta finora dal Presidente del Consiglio. Vuol dire mettere una carta pesante al centro del tavolo, perché d'ora in poi la lunga campagna elettorale italiana dovrà servire a dimostrare soprattutto una cosa: se i partiti tradizionali, dal PDL al PD con tutti i loro limiti, sono in grado di dare all'opinione pubblica l'impressione di essere capaci di prendere in mano il destino europeo del paese. In Olanda gli elettori hanno appena deciso e hanno dato fiducia senza esitazione a dei partiti pro-Europa credibili. Da noi c'è molto europeismo di facciata, lo sappiamo, ma nella sostanza il sistema politico sembra poco adeguato alla sfida. Però mancano alcuni mesi al voto e c'è tempo per dimostrare il contrario.